Il senso è che non si può continuare a fare la pelle su un territorio che in questi anni sta cercando di rinascere e di ricostruire un tessuto sociale e dei legami forti per pura campagna elettorale, per pura demagogia. Non si possono insultare le associazioni, le persone che abitano quotidianamente quel territorio in maniera strumentale. Il senso è quello. Noi ci siamo tutti i giorni su quel territorio. Sostanzialmente rivendicate anche un altro modo di affrontare i problemi rispetto a quello proposto l'altro giorno da Salvini. Assolutamente. Noi tutti i giorni appunto siamo lì, siamo su questo territorio con i nostri volontari, con persone normali che si aggregano a noi, che vogliono migliorarlo. L'approccio non può essere quello muscolare e di creare odio tra le persone. Deve essere un approccio che accoglie, che include e che ragiona con le persone, perché i problemi esistono, è inutile negarceli. I problemi esistono, anche quelli che magari ha denunciato Salvini, ma non in quella modalità, perché ci sono dei progetti, ci sono dei lavori, ci sono delle persone vere che tutti i giorni lavorano su questo territorio. Puoi aiutare le ascoltatrici e gli ascoltatori a capire un po' la storia del pilastro, ovviamente sinteticamente, per capire anche come si sono generati i problemi? Il pilastro è un quartiere nato dalla prima immigrazione meridionale in Italia e ospita una buona parte degli appartamenti di edilizia pubblica residenziale, per cui con tutti gli annessi e connessi che questo si porta dietro. Negli anni ci sono state prima appunto le famiglie immigrate che cercavano lavoro, che venivano a lavorare qui a Bologna, poi ci sono state successivamente i fenomeni migratori dell'ex Jugoslavia, che comunque sono stati inseriti all'interno dei palazzi pubblici, perché sono tutti palazzi che sono destinati, appartamenti che sono destinati a ospitare famiglie numerose. Oggi chi fa figli sono le persone che arrivano da altri paesi, e quindi, come dire, è un tessuto sociale di proletariato che viene qua a lavorare con tutti gli annessi e connessi che questo si porta dietro. È un territorio però che in un qualche modo ha lottato e ha ottenuto dalle istituzioni servizi e che in un qualche modo ha cercato di rilanciare nel tempo la propria immagine di fronte a uno storytelling che si basava più sul singolo episodio piuttosto che su un lavoro collettivo, che raccontasse un lavoro collettivo che è quello delle varie associazioni, delle varie persone che in questi anni qua si sono impegnate. Poi è successo la Runo Bianca, quindi l'eccidio dei carabinieri, insomma il pilastro è stato segnato da tanti eventi. Descriverlo così sommariamente penso anche di fargli un torto, però è un territorio nel quale esistono persone per bene che lavorano tutti i giorni per migliorarlo. E nonostante in questi anni il pilastro sia anche cambiato rispetto al passato, rimangono alcuni stereotipi. Ecco, come è cambiato in questi anni? Quali sono stati un po' i progetti, gli interventi che sono stati fatti? Ma se noi andiamo a guardare tutti gli interventi, c'è stata una riqualificazione edilizia nel 2016 molto importante. Io poi sono presidente di un circolo che in questi ultimi anni ha ricevuto in convenzione un edificio che si chiama Fattoria Urbana, che completa un progetto che è quello dell'unica fattoria urbana in Emilia Romagna. Quindi, come dire, un'eccellenza nel quale facciamo didattica con bambini, nel quale facciamo attività legate all'agricoltura urbana. Poi se penso che sempre al circolo della fattoria ha aperto pizzeria Etica di Masaniello, poi le nuove case di quartiere, la venuta di alcune associazioni che in qualche modo hanno anche rinfrescato il tessuto associativo, tipo il CDH Caparlante, se poi penso al DOM, alla Minaria, che ha investito con la sua cultura e ha portato un'ondata di freschezza ormai da molti anni qua sul territorio. Si è riqualificato dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista socio-ricreativo e culturale, e cercando, come dire, di lavorare non su eventi clamorosi, ma lavorando con la gente, con le persone del territorio, cercando di costruire quella coesione sociale che un intervento come quello di Salvini tende a distruggere. Chiedo solo di ricordare l'appuntamento di questo pomeriggio. Sì, ci vediamo al parco Michelini Moneta Stefanini davanti alla biblioteca alle ore 18. Spero che la cittadinanza venga non solo del rione ma di tutta Bologna. Vi aspettiamo.